fatto sognare ogni bambina. Sento nell'aria volare con te vicina, e sotto la luna ti dice che solo con me sei felice, che questo motivo gioconde un invito all'amore. Lo canta la mamma e il papà, anche il nonnino, la sente per strada suonare dall'organino. A volte ti mette nel cuor la nostalgia, canta veloce vagare, piccola mia. Ricordo una vecchia canzone, una semplice frase d'amor. Viva anche dei compagnoni, si faceva la rima con cuore. Sopra i monti, lungo il mare, per le strade tutti i dì. Si ballava, ognuno cantava, cantando ogni cuore diceva così. Il valzer che ha fatto sognare ogni bambina, sento nell'aria volare con te vicina, e sotto la luna ti dice che solo con me sei felice, che questo motivo gioconde un invito all'amore. Canta la mamma e il papà, anche il nonnino, lo sente per strada suonare dall'organino. Tre volte ti mette nel cuore la nostalgia, canta le non ci vagare, piccola mia.